Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey, we come and rapper every time. Bentornati e bentornate. Bentornati e bentornate. Mo vediamo. Con un sacco di problematiche. Però come al solito, direi. Diciamo come al solito pure. Problematiche nostre. Non è che. Sì, sì, come al solito. Come al solito. La radio funziona sempre bene. È sempre noi, nostro il problema. Cioè, sempre noi. La radio, anzi, la radio Onda Rossa ci vuole bene, ci accoglie e continua da 3 anni e più a favorire, insomma, diciamo, quantomeno ad agevolare il nostro passaggio in radio. Quindi diciamo che la radio ce la mette tutta malgrado noi. E comunque, benvenuti a tutte e tutti, questa è la ennesima puntata di Io te l'avevo detto. Grazie al pubblico in sala. Sì, perché questa, appunto, dicevamo, è Io te l'avevo detto. Dunque, questa cosa è iniziata a diventare stucchevole. Dai, perché? Comincia a essere un po' stucchevole. Ma dici proprio la trasmissione in generale? La trasmissione in generale lo è da un po', ormai da un bel po'. Noi con questo coretto ormai va bene. Lasciamo esprimere il nostro pubblico su queste cose. Lasciamo esprimere il nostro pubblico e partiamo subito con il sottofondo. Esatto, dove vi dovete esprimere? Vi dovete esprimere su svariati canali. Intanto sul nostro canale Telegram, che ci sta il canale Telegram di Io te l'avevo detto, che se non vi siete ancora iscritti, non lo so perché, che state a fare, vabbè. Poi 0649175 è il numero della radio ormai da tempo immemore, e quindi potete chiamarci e dirci che bello quando fate il corretto, che schifo quando fate il corretto, insomma, così. E oppure poi, sulla mail che sì, ce la ricorda Simone la mail. Ricorda. Io te l'avevo detto, @ondarossa.info. Oh, adesso se la ricorda, vedi che bravo, bene. E niente, questi sono i nostri canali. Oggi è una giornata, insomma, noi facciamo finta di essere allegri, scoppiettanti e sbarazzini come sempre, perché in realtà ci rode parecchissimissimo il culo in questi giorni, molto più del solito. Ma insomma, neanche poco. Esatto, è inutile che vi spieghiamo perché, ma comunque ve lo spieghiamo lo stesso. Perché insomma, sì, vabbè, più che altro diciamo che ci rode parecchio, dicevamo. Sì, no, più che altro ne parliamo talmente tanto che appunto ci sentiamo anche abbastanza oltre che incazzati, soli tante volte, no? Poi, visto che sono oggi 101 giorni di sciopero della fame di Alfredo, qualcun altro in più si aggiunge e se lo ricorda, non che comunque non se ne sia parlato, se ne è parlato. Esatto, è proprio questo il motivo a cui accennavo prima. Insomma, diciamo che, come molti di voi sapranno, Alfredo in questi pochi giorni fa, insomma, è caduto durante una doccia, insomma, si è fratturato il naso e quindi le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Lo sciopero della fame, appunto, da 101 giorni, immaginate quali possono essere le condizioni fisiche del nostro compagno, e di conseguenza assistere a questo omicidio vero e proprio dello Stato, ecco, insomma, ci mette davanti a degli stati d'agitazione veramente, veramente terribili. Anche oggi, appunto, ricordiamo, si è in piazza, insomma, per manifestare in favore di Alfredo. Più tardi probabilmente ci collegheremo, anzi quasi sicuramente ci collegheremo con la piazza e cercheremo di sentire quali sono, insomma, diciamo, le circostanze che portano, sì, sicuramente, verso tutti a stare in piazza. Verso le 4 ci avremo un po' un rilancio anche da chi si è occupato più di noi nello specifico di questa roba qua, ma in generale comunque veniamo da una settimana molto intensa, ma caratterizzata anche da una presenza in piazza di tanti e di tante, e quindi insomma oggi alle 18 la speranza insomma era quella di scendere in strada e attraversare anche un po' sempre una zona centrale, perché stiamo parlando dell'appuntamento a Piazza di Russa, però insomma di attraversare anche altre strade oltre quelle sotto al ministero. Una settimana sotto al ministero è stata fatta, è una presenza importante, ci sono stati tanti interventi, continueranno ad esserci tanti interventi anche oggi durante il corteo, quindi è un giusto motivo per andare e per starci, insomma, se ce ne fosse bisogno di uno in più, insomma, dai, ne stiamo a parlare. Comunque, nella nostra diciamo disgrazia di questo sabato 28, riusciamo a mettere una canzone, visto che mi sono scordato il caricabatteria a casa. Sì, vediamo un po' oggi. Oggi abbiamo un ibrido con i computer, precarie proprio. La radio, vediamo se ci assistono. Sì. Bello mood con Arborosi, Anthony B e ne canto. Bello mood featuring Anthony B. Arborosi. Oggi con i trillini siamo più imbrogliati del solito, però ti pare che non arriviamo. Vale il trillino sempre, pure in situazioni precarie. Va grazie, bene. Riga, grazie. Songs of Melody, Mellow Mood featuring Anthony B. Alba Rosa. Most I curse. We don't want no more shedding of blood. That's how we are selfish. Spread love, spread love. No more hate and grudge. That's how we are selfish. Spread love, spread love. And sing some songs of redemption. No matter the hours or the time and place, time to change the vibration and put some smile on the people them face. So Emeterius Mellow Moon, Anthony B, Alboro C, one big family. Jamaica, Spain, Italy, oneness, one people. Quindici e 18, questa è sempre Itlad, sempre 87.9 punto Onda Rossa. Sa. Punto Onda Rossa. 87.9 punto Onda Rossa. Onda Rossa punto info. Bello. E vabbè dai. Allora, questa, così, sì. Questa è Itlad. Oggi siamo un po' sbagotti, un po' sbattuti, raga. Purtroppo il lavoro ci massacra ormai, questa cosa che dobbiamo affrancarci dal lavoro, non so, forse ce la siamo scordata, però noi dobbiamo lottare per l'affrancamento dal lavoro, basta raga, basta lavorare, basta, non se ne può più. Punto primo. Arriviamo al sabato che stiamo veramente cotti finiti. Personalmente io finisco di lavorare tipo un'ora prima della trasmissione, quindi personalmente arrivo proprio spam. Stiamo, è un momento, dobbiamo esternarci. Esatto, no, più che altro abbiate pietà di noi qualora hai dovesse... questa necessità dunque. Eh sì, Jack, sì, sì, quella di esternare. Le smette di lavorare. No, appunto, sani principi marxisti dell'affrancamento al lavoro. Io voglio dire, noi non ci dobbiamo scordare queste cose, se no che no. Fa? Cioè, voglio dire. Quindi questo, e non lo stiamo facendo, compagni, sono sempre stato per lavorare meno, lavorare tutti. Lavorare zero. Lavorare zero, lavorare nessuno, lavorare nessuno, e vedrai che se nessuno più vuole lavorare, vabbè, dai, non c'è, insomma, più bisogno di lavorare. Come avrete capito, che siete all'ascolto qua, questa è una trasmissione un po' che lascia il tempo che trova. Dobbiamo pensare, però, insomma, ad altro, però insomma ci proviamo a tenerci. Ma manca a buttasse così, cioè, giù, però, raga, l'ha fatta proprio, ma poi butta, può, dire, Dio, cioè, è il top del, però, top, insomma, manca, dai, a buttasse così giù, dai, mamma, una battuta, madonna, perché non c'ho le risate vinte, è un nichilista, perché non c'ho le risate vinte, mo siete voi che è stata buttata giù perché non ho messo le risate vinte. Questo nichilismo e famo noi risate, tu ci fai vincere, io lo dico tutte le settimane, e se non fosse per quelli e quelle che ci fanno i trillini per le canzoni, non quello sacrosanti, quello infatti, buon intenditore, anche chi ci chiede il podcast, giustamente anche quando noi ci dimentichiamo di farlo, c'è chi ce lo chiede, raga, noi continuiamo a non spiegarci questa cosa, però noi grazie, vi ringraziamo comunque, sì, non è vero, non stiamo scherzando, lo sappiamo perché ci amate e noi pure vi amiamo tantissimissimo. Guarda, sei un, comunque, dai, a parte, un cioccolatino, a parte gli scherzi, ho detto questa cosa qua per interrompere il vostro flusso di stronzate e non ci sei riuscito, non ci sono riuscito perché avete ripetuto subito dopo, però insomma quello che volevo dire, sì, è vero che pur con questo con questo mood, insomma, ricordiamo appunto sicuramente il presidio delle 18, che forse non sarà un presidio ma sarà una passeggiata, e nel frattempo, insomma, ci facciamo due chiacchiere su quello che durante la settimana eccoci qua, ci ha un po' così fatto sorridere. Non so se vogliamo partire da... Ci ha fatto sorridere, ci ha fatto, nel senso, ogni tanto... Spero che il tono fosse ironico, come dire. Mica tanto. No, vabbè, nel senso, a me un pochino che... Magari parliamo di cose diverse, che ne so. Beh, parliamo di diverse cose, certo. Logico. Cioè, nel senso, io volevo partire con la Meloni che con questo governo che fa sti accordi, che non vedeva l'ora di fare gli accordi, per prendere il gas non dalla Russia... Con tutti tranne con la Russia, ma si era leggermente dimenticata che la Russia praticamente sta dappertutto, un po' come il parmigiano, insomma, quando si tratta di gas come il parmigiano, sembra un po' il gioco delle vecchie volpi a mischio. Quello, esatto. No, delle tre carte, delle tre tazzine, capito? Sì, quella sì, sì, trova la pallina. È quella che te la mischia alla fine, però la sostanza è sempre. Sì, perché quella. Effettivamente stiamo parlando proprio della strategia, diciamo, energetica di questo governo. Che pur di staccarsi dal mostro di transizione energetica, dal mostro post-sovietico, dice no, noi dobbiamo prendere il gas da qualcuno che non è Putin. Da chi lo prendiamo, quindi, il 40% del gas che ci dava la Russia? Lo prendiamo da Algeria. Dall'Algeria. L'Algeria, un simpatico paese del Maghreb. Sì, sì. Dove insomma ci sono diversi diversi punti di estrazione, uno dei quali, insomma, al 49% è partecipato da Gazprom. Da Gazprom. E chi è Gazprom? Chi è Gazprom? Naturalmente la società leader russa, insomma. Ok, benissimo. Quindi, cioè, nel senso, allora, che questi governi comunicano. La società di Stato russa, attenzione. Cioè, là è una cosa complicata, non è proprio statale, però nel senso, leader. Questo è uno dei contentini che poi Putin ha dato alla Russia, ossia, nel senso, distaccare un pochino l'economia, quella esterna, dalla politica stretta, che poi però comunque in realtà come vediamo in questi casi è strettamente collegata e viene anche esatto, utilizzata cioè come famo qua noi in Occidente, lo fanno pure là, insomma. Questo è una cosa, un po' sembra oggi poi sia andata a Tripoli, no? Sì, oggi è andata in Libia. Esatto, oggi è andata in Libia e l'Algeria, insomma, se l'è lasciata, diciamo, alle spalle. Però è il gioco che sta portando avanti la Meloni è quello di affrancarsi dalla Russia. Ma che cosa sta succedendo in Algeria? Perché questo è il punto. Quando dicevamo che gran parte, diciamo, delle infrastrutture estrattive algerine sono russe o comunque partecipate in larga parte dalla Russia, bisogna andare a vedere un po' che cosa sta facendo l'Algeria. L'Algeria non è uno stato indipendente da queste dinamiche, da questi svolgimenti, anzi tutt'altro. L'Algeria è al centro, diciamo, di uno scontro, se possiamo chiamarlo così, tra le due grandi potenze, insomma, Russia e Cina, perché anche la Cina è presente in maniera molto molto massiva, e di nuovo qua, in Africa, ma anche e soprattutto in Algeria. Però sia la Cina che la Russia sono presenti, ma in modo molto diverso. Di nuovo, però, anche questa qua è una cosa che ci possiamo anche permettere di dire, che noi l'avevamo detto. L'avevamo detto, esatto, non l'avevamo detto, infatti. Ve lo diciamo. Cioè, nel senso, è da un po' che si farnetica su questo tipo di roba. Che succede? Che la Russia è presente in Algeria sia con le infrastrutture per quanto riguarda il gas, ma anche e soprattutto dal punto di vista militare, perché il supporto che generalmente la Russia offre agli stati che non stanno allineati con l'Occidente è di tipo militare, quindi generalmente manda la Wagner oppure manda i famosi peacekeeper, che sono i soldati, insomma, che si interpongono tra forze che sono generalmente popoli che vogliono l'indipendenza, in grosso modo, mandano questi russi, questi peacekeeper russi, che dovrebbero mantenere la calma e la pace, insomma, questo è. Invece la Cina, che notoriamente, diciamo, c'è il cervello molto progressista. Esatto. Invece di mandare le armi, che cosa fa? Arriva e con i soldi, infrastrutture, colonizza dal punto di vista economico, ma soprattutto finanziario, strade con le infrastrutture, ma anche proprio con denaro liquido, che serve proprio a far, diciamo, crescere lo stato in questione. Allora, queste grandi influenze non sono evidentemente non sono al di fuori della politica energetica, perché determinano l'attenzione della politica estera, naturalmente, stiamo a parlare, perché certo. Comunque perché è interessante, proprio come dicevo poco fa, insomma, nota il peso che gli si dà a questa roba qua al di fuori dei confini e dentro i confini. Comunque stiamo a parlare di uno che sta roba qua l'ha preparata un bel po' di tempo fa, quindi chapeau all'orso del Clemino. Sì, è un gioco che sta preparando da un po'. Vabbè, comunque sia, esatto, lui credo che questo faccia parte di una grande... Sì, sì, certo, cioè, nel senso, un'altra cosa, logica, che noi, un'altra cosa che noi avevamo detto che in settimana, insomma, è successa è proprio quello che Putin ha tirato giù le carte dicendo è proprio ora che l'Europa si scrolli di dosso l'influenza americana, quella degli USA, nel senso, quasi in anno di guerra e insomma, esatto, il discorso... si è scrollato dalle spalle st'ipocrisia de, diciamo de, ormai del terrestre, palese, ormai sì, nel senso ormai era talmente schiacciante sta roba qua che E questo un po' tu hai fatto un po' un cross verso la, diciamo, l'argomento che un pochettino ha tenuto banco. Beh no, perché non è che ho fatto un cross, in realtà c'è, cioè, il passaggio è quasi obbligato, certo, no? Cioè, nel diciamo, senso, più che altro è andare a ritroso che si, esatto, infatti, che si scivola dentro a questa roba che invece, insomma, è, magari come dicevi tu prima, è una di quelle cose che invece ci ha fatto poco ride, invece insomma ci mette abbastanza il cruccio, perché comunque si cominciano a spostare i soldatini di risico. Esatto, diciamo che la guerra è diventata, c'è stato questo passo avanti del livello di scontro della guerra tra Russia e Ucraina, appunto, o comunque tra Russia e Occidente, e questa cosa si è concretizzata con questi famosi carri armati di cui tutti ormai, io immagino, tutti e tutti avranno sentito parlare troppo, perché questi carri armati, questi famosi Leopard, sono diventati, diciamo, centrali nell'informazione. Dopo la pistola a tamburo, dopo virologia c'è pure specializzazione in armamentario da battaglia da terra. Guerra, sì, esatto. Diciamo che dopo la pistola mi ha fatto ridere tantissimo la pistola a tamburo con la canna, col colpo in canna. Ma guarda, quella di Matteo Messinaro, sì, dici. È stato bellissimo. Sì, sì. Una Smith & Wesson a tamburo col colpo in canna. Sì, raga, ma dai, una, davvero, una, raga. Cioè, nel senso, colpo che, in canna. Che qualità, cioè, nel senso, che qualità di servizio ci offre questo questo panorama. Che Madonna. La notizia, entrare nella notizia, cioè, nel senso, dipinge il appunto, romanzo, appunto, no? Un boss mafioso, sì, ma comunque molto malato in fin di vita, come un grande personaggio da film. Sì, no, proprio carismatico. Non so come dire, cioè, è proprio un porco sotto tutti quanti gli effetti, che fa un po' di tutto, cioè, nel senso, non si dice, un, diciamo, uno zozzone, un viver, ecco. Sì, capito, e allo stesso tempo comunque un divo, sicuramente, certo, uno che si rifà al padrino, andava a vedere tutte quante queste piccole cose. Vabbè, comunque, insomma, vabbè, siamo andati a finire su Messina Denaro, vabbè, involontariamente. Vabbè, io pure ogni tanto, però, comunque devo sfaciolare un po' di gossip, un po' di gossip. Sfaciola pure a me. Però, insomma, appunto, stavamo dicendo di questi carri armati, di questo incremento, di questa passo avanti. Che è successo praticamente? È successo che l'Occidente ha ce lo aspettavamo un po' tutti, ha deciso di inviare delle armi diverse rispetto a quelle che ha inviato fino ad oggi, e questo è il passaggio sostanziale. Le armi sono state sempre inviate da quando è iniziata la guerra, i missili, armamenti e quindi artiglieria pesante, eccetera. Adesso invece iniziando a mandare dei carri armati pesanti da assalto, a carri armati offensivi. E quindi ti dice, il carro armato che ci sta, defensivo e offensivo? No, ci sono carri armati più piccoli e carri armati più grandi, carri armati meno armati e carri armati più armati, corazzati e meno corazzati. Questi carri armati che stanno inviando, questi famosi Leopard tedeschi e questi Abrams americani, sono carri armati pesanti, molto pesanti, carri armati molto armati, che servono a fare un sacco di morti, tantissimi. Questa cosa giustamente ha allarmato il Cremlino, però ha risposto in maniera molto, diciamo, classica sovietica, diciamo, dicendo vabbè, facevamo esplodere quelli di prima, faremo esplodere anche questi, non vi preoccupate. E però badate che siamo davvero, con questo passo in avanti, siamo ad un millimetro dalla tragedia. perché diciamo vi ricordiamo appunto che la Russia è una potenza nucleare, esattamente come gli Stati Uniti, che sono i principali finanziatori in solido liquidi. Se quando si parla di gas, di questa guerra, la Russia sta quasi dappertutto. Quando si parla di armi, insomma, l'abbiamo visto pure la settimana scorsa, come i giri che fanno poi pure le armi, insomma. Ma anche quando si parla di gas e di petrolio, ci stanno gli Stati Uniti. No, ci mancherebbe, certo. Sì, sì, no, nel senso, sì, assolutamente, certo. Però in questo caso, e infatti, è per questo, insomma, che c'è la guerra. Sì, esatto. Insomma, che siamo quindi così. Che vogliamo fare, signori? Cioè, no, senti un pezzo. No, dico, signori, voi del voi che ci ascoltate, voi potenti del mondo, come vi mettete? Cioè, davvero avete intenzione di generare una crisi di questa portata? Perché noi ci troviamo a questo, cioè siamo davanti al semplicemente sembra quasi che la Russia stia aspettando la scusa, insomma, per usare armi un po' più decisive. Sembra. Beh, diciamo che l'Occidente gliela sta fornendo. Su tutte e due le parti, che diciamo da svariati mesi sì, si divertono. Nel senso, d'altronde l'abbiamo detto un sacco di volte, no? Che il gioco funziona fino a quando che qualcuno non lo rompe. Cioè, quando un sacco di volte abbiamo detto che il gioco a chi ha la bomba più grossa è quello che determina quanto appunto fa paura agli altri e quindi quanto è più o meno ricattabile, stiamo a parlare di questa roba qua. Poi adesso non so se vogliamo scoprire chi è che ha la bomba più grossa. Insomma, possiamo scoprire chi ce n'ha di più, basta andare un attimo a farsi un'idea, però non è. Quindi dicevamo, sono le 15:33, noi vi abbiamo fatto un po' il cappello di quello che sarà questa puntata, diciamo questi tre macro argomenti, di cui due sono strettamente correlati, e vediamo un po' che succede. Mo ci sentiamo un pezzo e ci faremo un po' di chiacchiere dopo, dai. A fall back down. Don't worry about me, I'm gonna make it alright. Got my enemies caught, they on my side. I think I'll be a situation, gonna make it right. In the shadow of the darkness, I stand in the light. See, it's our style, we keep it true. I had a bad year, I go through. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. It takes disaster to learn a lesson. You're gonna make it through the darkest night. Some people betray more than class treason. Wanna make everything alright. Even if I look and act really crazy, I'm way down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. I'm very lucky to have my crew. They stood by me when she flew. I've been knocked down, beat down, black and blue. She's not the one coming back for you. She's not the one coming back for you. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna be my friend. If I fall back down, you're gonna help me back up again. If I fall back down, you're gonna help me back up again. 15:36, da che stava cominciamo? Stava a fare i conti i buffi, Da che cominciamo? Buffi che faremo con questo sistema malandato e malsano che ci opprime e ci distrugge. Bom. E che c'ha bisogno delle carceri maledette, e quindi un giorno noi lo abbatteremo. Io spero sempre di parlare ad una platea di gente che confida fortemente ancora nell'idea che un giorno noi faremo la rivoluzione, perché altrimenti, se noi stiamo qua così solo a decantare le nostre lodi, non ce la faremo. Cioè, siete voi ancora d'accordo che faremo la rivoluzione? Perché se no è inutile, eh? 06 49 17 50. No, veramente, non sto di una cazzata. Cioè, serio, perché se no qua non c'è aria, non c'è trippa per gatti, giusto? Giusto. No, dicevo, da che partiamo? Ricominciamo da capo. Noi stavamo parlando all'inizio della vicenda, insomma, di Alfredo Cospito, sì, che dai nostri microfoni è quantomeno centrale. Sì, quantomeno centrale. Diciamo che contare i giorni è stata dura, nel senso, cento, che continuare a farlo continua ad essere dura, e insomma, io trovo un pochino agghiacciante anche il dover aspettare questo step per parlarne in un certo modo. Non mi riferisco naturalmente a noi, ma mi riferisco anche in altri termini, no? Ma anche il semplice dover prendere provvedimenti. Abbiamo visto che è stata anticipata il riesame del 41 bis, però, cioè, comunque sempre molto troppo lontano rispetto a quello che può essere a quello che deve essere la linea sulla quale bisognerebbe fermarsi, no? Nel senso, non sta sicuramente a noi dire qual è la linea oltre quale uno Stato non dovrebbe andare, però siamo certi che è stata sorpassata da tanto tempo in questo, come in tante altre tipi di battaglie che si portano avanti perché c'è bisogno, perché gli ultimi e le ultime, insomma, purtroppo sono tali, perché purtroppo non gliene frega quasi niente a nessuno, e questo è quello che succede. Anzi, se è possibile, ti interessa solamente per sfruttarli. E abbiamo visto tante volte come anche in questo caso su Cospito la cosa è stata sfruttata per alimentare un mostro, tant'è che gli viene proprio detto che messo nella condizione per la quale lui deve dire se vuoi uscire dal 41 bis devi dire che fai parte di questa organizzazione, che fai parte di questa cosa qua, cosa che è stata dichiarata che non esiste questa organizzazione durante un altro processo fatto poco tempo fa lui stesso dallo stesso Stato, e quindi nel senso diventa un trabocchetto, come tante volte abbiamo visto in tanti piccoli aspetti per non chiamarla per quello che è, ossia tortura, perché di quello che stiamo a parlare, perché sì, sbatte una persona all'interno di un buco per 22 ore al giorno, come dicevamo l'altra mattina, probabilmente sotto il livello del mare, sì. Farlo uscire per 2 ore al giorno e farlo poter parlare solamente con altri 2 che stanno nel suo stesso braccio del 41 bis, sotto la stessa sorveglianza, sotto una grata che ti fa vedere il cielo a molti metri di distanza, sempre spazi piccoli, e in sciopero della fame, perché Alfredo è quello che ha detto dall'inizio, è quello che appunto poi dopo lascia intorno il silenzio assordante, e infatti poi ti vengono in mente le parole che chiamano le trasmissioni della radio, che di sta roba ne parlano tanto, troppo spesso ne hanno parlato, e quindi niente, questo è perché appunto dicevamo prima che gli ultimi svolgimenti sono veramente drammatici, perché insomma le condizioni di Alfredo, sia fisiche che al contrario di quelle psicologiche, sono molto debilitate. La situazione è molto molto grave, esatto, insomma. Lo spirito di Alfredo resiste, la lotta continua, lui ha dichiarato più di una volta che sta mettendo tutto se stesso e tutta la sua vita in questa battaglia, ecco, però siamo in un momento in cui davvero la situazione si è fatta allarmante. Io credo che in questa fase non si tratta più di opportunità politiche da parte di questo governo, si tratta di umanità, semplicemente si tratta davvero che la lotta ad Alfredo, come ci dicono anche giustamente dal nostro gruppo, insomma, è un esempio e indietro non si torna. Cioè, ormai c'è questo passaggio in cui Alfredo ha dimostrato che il 41 bis ha dimostrato col suo corpo, con la sua sofferenza e con quello che sta passando, sta dimostrando che il 41 bis è tortura. Non c'è appello. Il 41 bis non ha niente di rieducativo. Il 41 bis non ha nulla di umano e non ha niente, è semplicemente un buco nero nel quale le nostre anime sono contente di veder bruciare e morire qualcuno, le nostre, magari noi che lottiamo giorno dopo giorno contro il calcio, ma l'opinione pubblica, gran parte dell'opinione pubblica vuole questo buco nero dove far finire le persone, dove scordarsi di questi mostri e di questi cattivoni. Quindi insomma noi ci avviciniamo insomma alle 4, che è più o meno l'orario in cui noi probabilmente ci riusciremo a collegare con la piazza, e appunto vi ricordiamo 101 giorni di sciopero della fame. A questo punto insomma io credo che quasi potremmo quasi mettere una canzone, però mi sa che c'è la regia che è impegnata. C'è la regia. Dai, prova Simo, vai, prova. Vediamo un po' se riusciamo ad autogestirci il pezzo. Attenzione compagni, compagni all'ascolto. Stiamo facendo un esperimento. Stiamo vedendo se senza regia, cioè senza il nostro caro Matteo, noi riusciamo a far passare un pezzo. Io sono convinto che ce la farei, Simo, perché Simone c'ha dalla sua una grossa esperienza al mixer. Voi dovete sapere che qua non è che so solo io quello che proprio quando lo metti davanti a un mixer è come se gli dessi un testo di, che ne so, di greco antico. Io non lo so. Vediamo un po', Simone, dai, ce la fa. Vediamo un po', ce la può fare, ce la fa. Vediamo un po' che se ce la fa. No. Allora, probabilmente non stiamo riuscendo a farci. Vabbè, in ogni caso, un attimo, perché vediamo un po' se riusciamo. Qual è il problema? Non ho capito. No, c'è niente, il sottofondo. No, niente. No, stiamo cercando semplicemente di escluderti una volta per tutte da questa. Vediamo un po' se. Siete delle merdacce. Va bene. Io sono pronto a essere sostituito. Dai, guarda, mettere dall'altra parte. No, per favore, no, ti prego, guarda, credo che potrebbe essere un esperimento poco divertente. Magari. Guarda. Che dice? È stato il sottofondo, però così si rialza la musica. No, io non ho toccato niente. Dai, ragazzi, per favore, smettetela, dai. Basta. Non. Dai, metti una canzone, su. Mettiamo una canzone. Non lo so, però sei lento. Close. forse. No, sì, no, eccoci, no, no. Eccoci. Beh, è stato una frazione di secondo. È stato un esperimento veramente fallimentare, qualcosa da magari. Non posso lasciare solo in atto. No, infatti. No, però c'è da dire che abbiamo capito. Mo. Abbiamo capito. Io no. Tu guarda, forse mo, sì. Mo famo una cosa. Sì, sì, mo capito. No. Mo famo una cosa. Il prossimo brano famo lo stesso cambio che avevo fatto prima. Passiamo da là, lo metto io e poi ripassiamo. Sì. Ma vabbè, mi sento di oppormi, non lo so. Sì. E poi vabbè, nel senso che altro volevo parlare di gas, boh, pure qua. Erano tre, ok. Sì, no. Esatto, sì, certo, appunto. Volevo parlare di gas, parliamo di gas. No, perché tanto nel senso faceva abbastanza sordito, come dicevamo prima, insomma, gli errori che nei quali si vanno a incespicare. Non lo so, mi sono perso la chiusura dello spessore precedente, quindi no, lo sapete voi, se introducete voi il terzo spessore, perché effettivamente pure di questa roba qua l'abbiamo parlato spesso. Sì, la radio svariate volte. E abbiamo parlato anche insomma della relazione con la guerra, quindi il gancio di prima, quello che era venuto naturale, insomma, ne era la prova, no? Sì, assolutamente. Bisognerebbe pure guardarsi un pochetto avanti, perché pure nel senso, o anche indietro, perché visto che ci stanno già un sacco di compagni e dei compagni che organizzano le lotte su sta roba, ce ne saranno pure altre, perché serviranno i rigassificatori, come dicevo. No, esatto, perché appunto in tutto questo il nostro punto di vista, se possiamo umilmente proprio permetterci di dire il nostro punto di vista, è che tutto questo riguarda la lotta per le energie, per questioni, cose inquinanti, cose che non, energie non rinnovabili, roba che insomma noi stiamo comunque continuando ad estrarre petrolio, gas dal sottosuolo, quando invece proprio in questi momenti sarebbe giusto appunto continuare a parlare di rinnovabili, ovviamente non nell'accezione diciamo capitalistica che ne stanno dando gli stati occidentali con questo il Green New Deal. E non è questo quello che intendiamo noi, però appunto il discostarci dalle energie non rinnovabili è la necessità fondamentale. È evidente che le energie non rinnovabili sono, diciamo, il motivo di tutte le guerre, di gran parte delle guerre in tutto il mondo, non solo quelle in Europa. No, certo. Quindi ecco. L'avevamo visto, insomma, quant'erano in atto, tipo una sessantina. Esatto, perché appunto questa guerra è una sessantina di guerre in giro per il mondo, certo, ma questa guerra è servita ad esempio per raddoppiare la portata del TAP, per progettare nuovi gasdotti. E si sta facendo, perché ve ne sono due chiusi di gasdotti, che probabilmente tanto verranno riaperti. Perché quindi non è che ci fa bene questa nuova vulgata anti. Cioè, non adesso comunque da qualche parte. Boh. Sì, che poi si è vista che poi sempre lì Namari sbatte. Quindi stiamo a parlare della sostanza, appunto, di questi gasdotti. Soprattutto quello che era appena stato completato, che mai era stato utilizzato, mancava solamente ad aprire il rubinetto del Nord Stream 2, che è stata una delle cause per le quali diciamo concatenanti all'inizio recente di questa guerra, perché insomma invece poi più va avanti e poi più uno va a ritroso, e quindi va a vedere quanta altra roba è stata messa in ballo nel corso degli anni per arrivare al punto dove non arrivi. Sì, appunto, le politiche energetiche dei vari stati erano state fino a poco tempo prima della guerra tutte orientate verso la Russia e verso l'utilizzo dei grandi giacimenti di gas russi. Perché si è sempre fatto così. Esatto, si è sempre fatto così, sempre perché fatto la Russia è il più grande produttore di gas metano. Perché ci costa di meno, anche perché perché prendere gas o altra roba dagli Stati Uniti, c'è il costo del trasporto, c'è il costo appunto, ma pure prenderlo dall'Algeria. No, anche perché dagli Stati Uniti non ci arriva il gas in stato gassoso. Esatto, cioè i rigassificatori di cui stavamo provando a parlare poco fa, che poi magari insomma prima o poi ci faremo pure lì un approfondimento, sì, perché sul rigassificatore secondo me rigassificatore appunto, che sono queste strutture che servono a tramutare il gas che arriva in forma liquida, perché ricordiamo che il gas viene estratto in forma gassosa, poi con dei costosissimi processi viene compresso a tal punto da diventare liquido e per essere quindi trasportato in grandi quantità, perché altrimenti col gasdotto ne trasporti poco di gas, ci vogliono le bombole piene, ci vuole un gasdotto bello ciotto. Quindi che succede? Che arrivano le navi piene. Arrivano le navi piene di GNL, questo GNL che deve essere riconvertito da questi rigassificatori, che sono sia delle strutture in terra ma anche delle strutture in mare, che sono delle grandi navi attrezzate per essere appunto dei rigassificatori e riconvertire questo gas liquido in gassoso e immetterlo appunto nelle reti nazionali. Ma cosa succede? Che dagli Stati Uniti, come dicevamo, diciamo che noi non siamo proprio attrezzatissimi per questa cosa, a Piombino si sta creando il gas, il rigassificatore, diciamo che c'è a Ravenna pure, se non sbaglio, sì, cioè, ci sono diverse volontà insomma di mettere su questa cosa qua, che vanno comunque anche contro, cioè sono robe molto lungimiranti che vanno contro la reale fine poi di quello che è un conflitto. Lungimiranti, no, perché, in che senso? Che sono lungimiranti perché tu dici io faccio questa cosa qua perché la voglio usare per i prossimi 50 anni. Esatto. Ok, quindi tu dopo hai ascoltato che la guerra non finisce, che comunque se finisce con la Russia basta. Esatto. Loro finisce male. Cioè, capito come? Per quanto ci riguarda possono rifare pure il muro del Berlino. Si sono puniti. Sì, sì. Magari diciamo noi, magari rifacessero il muro, però in realtà a questo punto abbiamo chiuso, è vero, proprio come dici tu, definitivamente, sì, perché certo. Diciamo guarda, non lo prendiamo dalla Russia ma tanto lo prendiamo dall'Algeria, lo prendiamo dall'Azerbaigian, effettivamente. Quindi cosa succede? Ci troviamo davanti a questo bivio, no, oddio, cioè nel senso se trovano, perché comunque stanno ben in bilico, ci troviamo noi come popoli, diciamo i baliegetti, sì, che comunque utilizza l'energia, sì, perché io stavo a parlare del governo nostro, che se trovano in bilico su questa come su tante altre cose, che comunque cioè da dire, lei non vede valutare, potete cominciare a prendere, c'è cioè lui e noi abbiamo anche lei, non vede valutare cominciare a prendere i voli e vanno a fare gli atti presidenziali in giro per tutti i capi di Stato, non vede valutare. Io voglio vedere che cosa con italica fierezza, sì, certo, con italica, con italia style, e vorrei capire che cosa succederà dal summit che c'è oggi a Tripoli, insomma, perché appunto ricordiamo che il nostro governo ha da buon governo fascista qual è, ha diciamo rivalutato le antiche tradizioni, cioè un sano colonialismo, un colonialismo finto, di facciata, il colonialismo quello dei poracci, come si dice, il colonialismo dei noantri, cioè sì, quello di fare finta di avere un'influenza su dei popoli esteri, in questo caso all'epoca diciamo gasavano i popoli africani, invece oggi la Meloni è andata a contrattare l'acquisto di gas. Tu vedi poi il destino quanto è strano, vedi strano. Poi come tu prima li gasi e poi loro te lo vendono, sì, il gas. Vedi che vabbè, questa è una battuta terrificante, terribile. Proprio una cosa terribile, mamma mia, perché schifo, però insomma è il destino, a volte fa ridere solo me a quanto pare, però ecco, questo è. Vorrei capire che cosa succede invece in Libia, perché la Libia, insomma, l'energia credo che sia un'opzione poco percorribile. Credo diciamo, ingenuamente ritengo che la Meloni sia andata a parlare di immigrati e quindi di immigrazione, si è andata a parlare di immagino di contenimento del flusso migratorio e invece ha dichiarato che la sua prima intenzione no, è quella di far crescere la Libia. Ah, certo. E di aiutare la Libia a casa sua. Questo è quello che è una cosa nuova, sì, innovativa, un concetto del tutto moderno. Dice vi vogliamo aiutare qua, perché abbiamo pensato sta cosa noi, dice, siamo dopo tanti anni di discussioni abbiamo dopo capito, tanti anni di esordi, esatto, per come si chiamano centri di detenzione, che sono galere finanziate da noi. Continuiamo a fornirvi questi, diciamo, il know-how per torturare le persone prima che vengano da noi, che noi sappiamo bene appunto come si torturano le persone, insomma, sì, prima che poi arrivano qua le torturiamo noi, perché noi non è che siamo esportiamo da meno. Sì, esportiamo democrazia pure noi, in effetti è vero, esatto. Però d'altronde essendo noi base NATO, anzi base americana NATO, Noi siamo base pan di Spagna. Base... Poi sopra un po' di crema. Niente, noi facciamo cagare. Scusate il termine. Siamo proprio uno stato vassallo dell'Occidente. Tanto è vero che c'è la notizia che io ho voluto tenere nascosta, sì. Diciamo, la notizia che è partita la polemica per Zelensky a Sanremo. Sì, perché, perché fino a mo c'era la notizia che Zelensky andava a Sanremo. Adesso è notizia di ieri, che Salvini ha generato questa polemica. Sì. Dice: ma io guarda, io ho letto vorrei di tutto vedere. Di più, io di tutto di più ho letto. Solo cioè, canzoni, dice: non vorrei che la politica si fondesse. Ma poi non ho capito, cioè, in videoconferenza, manco ce va. Ma vabbè, dove va? Voglio dire, un presidente di uno stato in guerra va a fare ospite a Sanremo, mo ci mancherebbe. Però io non mi sarei meravigliato, prima di tutto. Ma ecco, che succede? Succede che Salvini appunto dice: ma davvero vogliamo invitare Zelensky a Sanremo a parlare di politica? Perché Zelensky verrebbe a parlare di politica a Sanremo, secondo Salvini. Dice: non vorrei che la musica, insomma, venisse confusa, venisse, diciamo, intorbidita con queste turpi visioni della guerra. Sì. Che facciamo quindi? Lo invitiamo Zelensky? Chi l'ha invitato? Pare che sia stato Bruno Vespa. Ti giuro, Bruno Vespa non me lo sarei mai immaginato che c'era che fa pure questo. Vedi? E invece Bruno Vespa a Sanremo. Pare che secondo me è molto meglio è molto meglio Bruno Vespa in diretta, secondo me, cioè, pure quello secondo me potrà fare lo stesso audience, perché comunque Ma tu pensa all'Abruzzo, che terra strana che può generare gente come Bruno Vespa? Mamma mia, raga. Mamma mia, comunque pensa, non dico altro. Comunque, vabbè, è vero, dovevamo parlare pure dell'antifestival, però insomma, poi vedremo, perché invece ci andiamo a ascoltare una canzone e niente, bella. I'm living on shattered faith, kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out when you thought of bliss in a city. This wasn't so much hate, you see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood, the heart is wise. All my friends are murdered. Hey, all my bones are marrows in. All these fiends want teenage rage. All my friends are murdered. It's our way. I never met a poor quiet like you. You could shimmer and rot at the same time through. There's never been a better time in this town. Bite your hand out of the frostbitten evidence. All my friends are murdered. Hey, all my bones no marrows in. All these fiends want teenage me. All my friends are murdered. So so here we go. Oh, Vedi che ti fanno le valvole, Simo, le valvole. Le valvole fanno bene. Madonna, le valvole, raga. Vabbè. Le valvole di che ho? Degli amplificatori per produrre pezzi che suonano così, quattro accordi in croce, bam, suonano grossi, massicci come una casa. Compà, i vabbè. Soldi, le macchine, quello ci vuole. Sì, vabbè. L'analogico. La macchina più grossa, come d'altronde il carro armato più grosso ci vuole. E carro armatone. Sì. Armatone. Come dicevamo, Simone stava spulciare bene quali erano, insomma, le altre cose, quali erano le percentuali, no? Che te spulgi, Simone? No, non è che quali erano le percentuali, cioè lei allora ripartiamo un attimo. Di che percentuale? Esatto. L'antefatto. Allora, questa allora. Io te l'avevo detto. Prima di tutto, bentornati. Io te l'avevo detto. Iscrivetevi al canale Telegram 06 1750 via dei Volsci 87.9, conto corrente postale 61 80 40 01, e poi comunque andate sul sito, il banner, sostieni, vai forte, dai. Comunque dicevamo, dicevi, Simo? Dunque, facevamo un riferimento, Matteo faceva riferimento a una cosa di cui discutevamo poco fa, e cioè la notizia fresca della Meloni in Libia, che sembra, per le dichiarazioni che ha fatto, aver battuto subito, insomma, dice il 50% degli irregolari che arrivano in Italia è della Libia. Ciao. Hai esordito così. Ciao. Basta mandarci la gente. Sì, proprio il contrasto ai flussi migratori irregolari per noi rimane un dossier centrale, nonostante, certo, capito? Va fino a dirgli comunque il 50% sono i vostri, quindi dobbiamo consolidare, e lì si avvia, diciamo, si annuncia, insomma, un'intesa per potenziare, guarda un po', come diciamo prima, la guardia costiera. Ok, via, pum, vedi. Quindi il premio, possiamo dire che per questa settimana, anche per questa settimana, abbiamo attribuito Bootyface. Il premio a Bootyface alla Meloni. Senza ombra di dubbio. Pure la settimana scorsa lei? No, la settimana scorsa non era lei. Chi era? La settimana scorsa mi sa che era proprio un governo, tipo, no, una roba del genere. No, era sempre un personaggio. No, se potremmo scordare chi ha segnato. Non mi ricordo, l'anno scorso. Dobbiamo fare non una classifica del Bootyface. Però Siria, quest'oggi, questa settimana, la Meloni si becca proprio il premio Bootyface, perché è evidente che, insomma, sei andata lì a dire: oh, ma basta, cioè, mandarci gente. E lì, dove in Libia, dove appunto, come dicevamo prima della trasmissione, non esiste un governo vero e proprio, cioè la Libia è uno stato, sì, che un po' complicato, perché dalla morte di Gheddafi, appunto dalla fine del regime di Gheddafi, la Libia non ha più trovato pace, diciamo. E questa roba qua, scusami. No, appunto, è uno stato diviso un po' più, un po' meno. Diciamo che Berlusconi con la Meloni avrebbero fatto con Gheddafi pure un bel trio. Ma non cambia, guarda, no, però nel senso, quello in che realtà poi non cambia la sostanza, no, certo. Pure qui cambiano le carte, cambiano le figure, ma non cambia la sostanza di quello che si fa. Cioè, si manda di nuovo una miriade di soldi, si pompano, diciamo, quelle che sono le forze militari che dovrebbero contenere a livello militare forte le coste, che sono la guardia costiera, l'esercito e via dicendo. Vi aiutiamo a casa vostra, no? Questo è più bispezziamo le gambe a casa vostra. E torna in auge anche l'autonomia differenziata. Abbiamo visto. Attenzione. Sì, che comunque questa roba qua è tutto quanto un bel pacchettone sul quale smuovono da un bel pezzo. Mi sembra che anche la storia degli stipendi, no? Diversi al nord e al sud. Sì. A Roma e Milano e nord più alti, più bassi. Visto questo è un governo di destra, un governo delle iniquità, un governo che non, diciamo, non ha nessun interesse a stringere la forbice delle iniquità, semmai ha interesse a sottolineare, a marcarle queste iniquità, appunto per favorire chi di iniquità non ha. Non abbiamo soffre. Visto come si sono affaticati, si stanno affaticando a rendere anche la pillola anticoncezionale una cosa che poi prende al consultorio qua nel Lazio, ma poi i consultori sono sempre di meno. e soprattutto poi magari non ti appoggi, cioè non apri gli occhi su un'altra serie di problematiche che riguardano quel mondo, quindi cioè, tra la botta e qua, diciamo, consolidano quello che è un governo fascista, consolidano quelli che sono i suoi ideali fascisti, sì, lo dimostra tutte in tutte le maniere possibili, le sì. Esatto, capito? Proprio in maniera oramai palese, ne abbiamo già riferimenti purtroppo nella nostra storia precedente, eppure non c'è bastato evidentemente. Sì, fanno figuracce su figuracce, perché poi comunque come dicevamo pure mercoledì mattina, Jack la Meloni ha fatto quella figura dicendo che il 41 bis era una cosa per cui loro si erano spesi, mentre invece si era confusa col 4 bis. Ci esatto. Mancava l'uno, ci mancava l'uno, vabbè. Nel senso, dai, sì, dettagli, street credibility. Credibility. Ho un po' tremato quando detto che, no? Che lei diceva. Hai tremato, Simo? Beh, sì. Un pochetto. Che lei dica, noi siamo battuti. Contro, no, a favore. Lei diceva che questo governo appunto si era speso, invece effettivamente non c'è niente che a quanto pare questo governo vorrebbe incrementare. Vabbè, sicuramente fosse per loro il 41 bis per tutti. Altro bis per tutti, invece no. Anche per i reati proprio minori, certo, quelli, ha lavorato di più sul 4 bis, appunto, che è l'ostatività di cui parlavamo la volta scorsa. Che sono due cose diverse. Che esatto, che non c'entra col 41 bis in questo caso. È una delle poche cose che il 41 bis. C'entra perché? Perché diventa lo strumento per il quale se tu te la canti. Forse ti tiriamo fuori dal 41 bis. Ma comunque non uscirai mai. Ma comunque non uscire mai. Certo, perché poi l'ostatività ha quella caratteristica lì. Nel senso che comunque sì, al di là di tutte le cose che ti sono negate, il carcere ostativo è perpetuo. Quindi voglio dire, la questione. E non prevede naturalmente nessun tipo di cambiamento. Assolutamente. No? Quindi la differenza col 41 bis, io non so in termini pratici, ma ecco, non ho abbastanza competenze per determinare quali sono le differenze in termini pratici. Sicuramente sarà un regime leggermente meno oppressivo. Io non ho contezza piena di questo, però ecco. Beh, si tratta la prospettiva proprio di un sistema diverso di detenzione. L'impianto diverso, sicuramente. Sì. Però ecco. La prospettiva è nera lo stesso, perché comunque, anzi, peggio, perché il carcere a vita è sì, ma infatti poi come se ci fosse bisogno di arrivare fino a così in fondo, no? Cioè, nel senso, questa è una tortura molto più grave e gravosa delle altre, ma già il carcere di per sé come istituzione fallimentare lo è, e rende difficile tutto quanto quello che c'è dopo, appunto, se te lo concedono un dopo il carcere, senza minimamente passare per quello che ci sta dentro o prima. Vabbè, che è questo qua. Eccoci qua. È un'altra storia. Andiamo a sentire un altro pezzo, vediamo se riusciamo a fare. Stavolta me li metti che non deciano, per favore. Sì. Grazie. Ma io non lo so. Questa è Grounding Dap. Dap. Che dap. Wow. 16 e 14 87.9 FM di Radio Onda Rossa. Sempre te l'avevo detto. Sempre te l'avevo detto. Grande Sean Dub, sì. Abbiamo sì, diciamo, riportato un pochetto low. Siamo andati un po' più low. Low profile, come non ci piace a noi di solito, però ogni tanto va fatto, va fatto, va fatto. Sì. Dunque, oggi sono le 16.15, sì, 16. Questo preciso istante, è 28. Sarai mondo, si monderà lo mondo. È la radio. È la radio. Questa è una cosa importante, importante. C'è scritto nella nostra lavagna. Nella lavagna, sì. Sarai mondo, si monderai lo mondo, e la radio. Anch'essa. È la radio. Se qualcuno l'ascolta, insomma, vuole fosse interessato la radio, per noi può farlo attraverso la pagina Sostieni sul sito www.ondarossa. No, in questo caso no. Ci sono tanti modi di mondare sostenere la radio. Esatto. Ma non mondarla. Anche mondare la radio è un modo di sostenere la radio. Sì, però non no. No? Sì, se sì, qualcuno no. volesse mondare la radio, la ce mondare. Lo fa sapere. E come facciamo? Noi vi aspettiamo, vi apriamo e la mondiamo. E mondiamo insieme la radio. E mondiamo. Cioè, non c'è nessun problema. Anche se dobbiamo dire che questa radio effettivamente mantiene sempre un certo decoro, anche dal punto di vista estetico, al di là di quello, insomma, che si possa che immaginare. Sarà il mondo. Esatto, siamo gente comunque che ci tiene. Sì. Alla forma, anche se non si direbbe vedendoci non si direbbe, ma è comunque anche vedendoci è tutto studiato. Sì. Sarei non vi preoccupate più per la sostanza, però quello sì, però la forma è anche sostanza, lascia stare un equilibrio giusto tra forma e sostanza. Esatto. Ora o mettiamo un altro brano. Sì, che brano vogliamo, che, insomma, credo che possiamo passare un altro pezzo, oppure iniziamo a fare un po' di snocciolamento tecnico per quanto riguarda la questione militare, la questione della guerra. Sì, dai, facciamo. No, snocciolamento tecnico, per modo di dire. Perché, insomma, stavamo parlando dei carri armati, stavamo parlando di quello che sta succedendo. Cosa sì, sta succedendo? Che sta succedendo? Che gli stati occidentali, nella fattispecie la Polonia, sì, ha intenzione di rifornire di carri armati Leopard 2. Non di ultimissima generazione, di penultima, terzultima. L'esercito ucraino. Sì. Questi carri armati però sono di fabbricazione tedesca. La Germania li ha venduti alla Polonia e infatti la Germania è lo stato europeo che ha più Leopard di tutti e ha anche i Leopard più moderni. Quelli venduti alla Polonia appunto non sono tra i più moderni, anche se sono sempre Leopard di seconda generazione, quindi molto che cattivi, comunque non fanno male, molto cattivi. Fino a qualche tempo fa, fino a qualche giorno fa, sembrava che la Germania dovesse dare l'autorizzazione alla Polonia per mandare questi carri armati. Dice sono fatti da noi, dalla Germania, quindi diciamo anche a livello, come devo dire, morale, la Germania sarebbe stata tra i mandanti di questa operazione. Effettivamente la Germania poi però ha riferito che la Polonia può fare come vuole, E comunque sia, la ministra della difesa polacca aveva dichiarato che in ogni caso avrebbero mandato questi carri armati. Cioè la Polonia, che è l'esercito che ha l'esercito più potente d'Europa in questo momento, aveva tanta intenzione di mandare questi carri armati. È stata davvero tra i primi falchi di questa guerra, perché storicamente c'è una grossa contrapposizione con la Russia, ma anche dal punto di vista della vicinanza geografica, diciamo che la Polonia è tra gli stati più interessati da questo, dai possibili sviluppi esteri di questo conflitto. Di conseguenza sono arrivati a mandare questi carri armati i polacchi. I tedeschi hanno dato il benestare comunque sia. E oltre a questi carri armati tedeschi, polacchi, stanno arrivando quindi di conseguenza anche dei carri armati statunitensi, che sono carri armati Abrams, che sono comunque carri armati molto performanti, sempre grossi e cattivi, che determinano però a questo punto un'entrata in guerra ufficiale degli Stati Uniti. Ufficiale e molto meno diciamo velata rispetto al semplice finanziamento o al semplice invio di munizioni e di materiale tattico, di armi pesanti, sì, droni, un po' di tutto. È un po' diverso, quindi la situazione è cambiata in questo senso. Sì, sicuramente. Dall'altra diciamo parte... che se all'inizio ci dicevamo che era una guerra di inizio Novecento, diciamo che ci stiamo spostando lentamente verso quella di metà Novecento. Una guerra cattiva, sì, brutta, fatta con i mezzi pesanti. Sì, fatta con i mezzi pesanti, anche appunto di un certo tipo, abbastanza recenti. Ricordiamo che pure lì il filo del rasoio è veramente sottile, no? Come dicevamo prima, sembra un po', anzi non è che sembra, entrambe le potenze diciamo più influenti in questa guerra aspettano che l'altro faccia una mossa sbagliata per poi passare a un attacco un po' più decisivo, un po' più grosso, che stiamo a parlare appunto del nucleare, che è una roba che per carità se sono inventati ormai generatori nucleari che mandano avanti le mini città, però insomma la pericolosità e anche lo sviluppo di questa tecnologia è andato molto avanti. Non è che stiamo a parlare per forza appunto delle bombe atomiche che spaccano tutto, che crepano. No, ci stanno appunto, sono arrivati a fare bombe a mano nucleari. Anche le famose armi sporche, le bombe sporche, il nucleare sporco, questa cosa mista, esatto, insomma. Che mi pare che è anche cominciata a girare all'interno di questa roba qua, perché se ne cominciava a sentir parlare già qualche mese fa. Si è parlato di bombe sporche, già noi ne abbiamo parlato, esatto, insomma, così in passante. Che erano già cominciate a essere state usate come minaccia all'interno di una delle fasi intermedie, diciamo, nel senso ancora quando si parlava, si continua a parlare. Questo qua però forse ultimamente, prossimamente forse smetteranno di parlare appunto di mediazioni, di chi andrà a fare il mediatore lì, piuttosto che abbiamo visto che si era proposto diverse volte Erdogan, a partita di Maio e a Razzi, certo, nel senso non abbiamo detto di questa roba qua, però diciamo che poi prima o poi c'è la linea del non ritorno, sicuramente per quanto riguarda una serie di questioni che so quelle burocratiche e quindi di conseguenza pure quelle di cui poi si va a chiacchierare, è la messa in opera degli armamentari pesanti. Diciamo che le mosse continuano nella direzione in cui stavano a fare, e quindi in barba a tutto quanto quello che è quello che magari uno si è potuto pensare nell'ultimo periodo, dice magari prima o poi adesso già avranno quello, no. Cioè, ma sempre peggio. Appunto, anche sto accordo qui con la supercazzola, perché ricordiamo che nel 2025 questo questo sito di estrazione dei gas comincerà a estrarre, quindi probabilmente anche a rifornire noi, assolutamente, è finanziato, anzi è di proprietà al 49% della Gazprom, e quindi sempre roba russa. In Libia, dicevamo prima, Algeria, Algeria, Libia c'è andata oggi. Vabbè, lo fanno. Quindi io qua è comparso un album così a buffo, sempre un bel dabbone. A questo punto ce lo sentiamo. Sì. spettacolo, vediamo se parte. È partito. Sumac Dub. Questa è Titania, che fa parte dell'album Leisure Than Delusi del 2015. Ci piace il dub, si è abbastanza. Vabbè, sonorità mystic. Comunque stavamo dicendo, no, noi che stavamo vabbè, dicendo lascia un po'. Arrabbiante. Esatto, questo è molto filo tunisina. Comunque, altra dichiarazione della Meloni in Libia, come dicevamo poco fa, che diceva non attueremo un'azione predatoria, cioè non vogliamo essere predatori, no, bensì vogliamo aiutare a crescere, cioè non faremo lasciare qualcosa. T'ha sentito già che stai a dire che era colonna, una colonialista, e mi ha detto non faremo l'impero questa volta, non cerchiamo di fare l'impero, è uscita l'una e mezza, è solamente colon, esatto. Questa è una battuta alla Giacomazzo. Insomma, infatti, dopo 3 anni cioè, un po' di influenza, vai, ce l'ho fatta. Tu capisci? Vittoria. Però è pure questo il bello delle lotte, che poi si intersezionano e fanno cose. Quindi, certo. No, nel senso, grazie per questa. Prego, per questa influenza. Idiozia che mi hai passato. Te sono grazie. Quindi niente colonialismo italiano Maghreb. Niente italici aiuti a casa loro, ma invece tanta gioia nel posto al sole? Nell'esportare democrazia. Cioè, Meloni, dov'è il nostro posto al sole? Dov'è? Non c'è. Quindi, insomma, ecco, la missione, perché amano chiamarla così i giornali, perché la Meloni è in missione. E Crosetto invece sta. Crosetto, il ministro, l'altissimo ministro della difesa italiano. È quello che poco prima vendeva armi. Vendeva armi, diciamo, imprenditore delle armi, è diventato ministro della. No, c'è una continuità logica in questo governo. Beh, cosa effetti, vuoi? Cioè, nel senso. Non voglio dire chi più di lui. Cioè, nel senso, ci vuole qualcuno che comunque parla quella lingua là, no? Che ne capisce, no? È andato a Crosetto quel che di Crosetto. È andato in Francia. È andato in Francia e ha fatto l'accordo simpatico. Che per accordo ha fatto? 700 missili. Bam! Diciamo che siccome la Francia è una. Diciamo la Francia è, dopo l'Inghilterra, è l'unica potenza atomica dell'Europa. L'Inghilterra, ricordiamo che essendo uscita dall'Unione Europea, è un po' europea, un po' sì, un po' parte, no, non si capisce. Non fa parte dell'Europa politica, ma fa parte dell'Europa geografica. E quindi anche dell'Europa militare, mi sembra di aver intuito. A questo punto, praticamente. E diciamo che l'Italia si appresta a correre ai ripari nello scenario di guerra futuro, acquistando dei missili dalla Francia. Sì, però non sono per noi, sono da destinare. Ma a chi li destiniamo? A chi potevamo destinare? Indovinate un po'? Ok. All'invitato top di Sanremo. Perfetto. Ecco. Benissimo. Cioè, si parla di un acquisto congiunto tra Italia e Francia, 700 missili di tipo Aster 30 per il sistema di difesa aereo. Perfetto. Quindi sono missili terra-aria che servono ad intercettare altri missili, come quelli che stanno intercettando in questi giorni sull'Ucraina, che la Russia sta bombardando ferocemente, soprattutto l'est del paese, specialmente dietro le linee di difesa ucraine. Quindi, insomma, tante vittime civili dall'una e dall'altra parte. L'accordo è stato firmato ieri, quindi alla fine si arriva ad un accordo. L'acquisto ci sarà, l'invio di questi missili ci sarà. Sì. Perché Israele ha negato la fornitura del famosissimo Iron Dome, che è quello che diciamo il sistema missilistico di difesa israeliano, che serve a tenere al sicuro tra virgolette sempre Israele dai missili palestinesi, insomma, che in questi giorni, tra l'altro, in Palestina sta succedendo lì veramente. Sì, e ricordiamo anche la giornata di domani in sostegno della lotta palestinese qua a Roma Scoop, quindi tutto quanto il giorno, e andate a cercare il programma, sta anche sul sito della radio, poi magari dopo facciamo anche, lo raccontiamo un po', perché ci saranno diverse iniziative, qualche concerto, insomma, perché, esatto. Punti, insomma, di incontro e di assemblea. E un'altra nazione che, anche se è fuori dai patti della guerra in corso, ma che però, insomma, sembra un pochino sempre più coinvolta, è la Cina. Sta roba qui, durante questa settimana, mi sembra di aver letto da qualche parte, adesso non mi ricordo su quale quotidiano, che converrà nel prossimo futuro continuare a sfruttare in Italia piuttosto che andare a sfruttare all'estero in Cina, perché paradossalmente si guadagna meglio, meglio là e qua ci stanno più diritti sul posto di lavoro. A me sta in cosa, Cina che in Italia. A me no. Sta, ti giuro, ho letto su qualche quotidiano. Nel senso, questo esatto, era però unito al discorso del, dell'autonomia differenziata, secondo me potrebbe essere un sì, perché una piccola ricerca che secondo me andrebbe fatta. Esatto, perché questo governo, dicevamo prima, si è messo in mente, pure tra le tante altre cose belle che si appresta a fare, si è messo in mente che gli stipendi devono essere diversi, devono essere roba diversi qua. Perché il costo della vita è diverso. No, ma guarda, una cosa questa è divertentissima, questa è bellissima, questa cosa. Allora, c'è una dichiarazione di Crosetto che dice che mentre incontrava perché okay. Mi è capitata questa cosa, ma scusate, vai, bellissima. C'è Crosetto che dice praticamente ok, stiamo firmando, parlavamo dell'accordo, no, poco fa abbiamo detto dell'accordo con i francesi per i 700 missili da inviare in Ucraina, e poi c'è una dichiarazione di Crosetto lo stesso giorno, ok, di poche ore dopo, che dice se i carri armati russi arrivano a Kiev scoppia la terza guerra mondiale. Oh, dobbiamo fare di tutto per fare in modo che questo non succeda. Questo è Crosetto, ti giuro, che sta nel frattempo firmando accordi con la Francia per 700 missili da inviare in Ucraina per impedire a Mosca di arrivare a Kiev con i carri armati. Sì, non, hai capito, per lo stesso tempo però dice che i carri armati potrebbero essere una chiara schietta dichiarazione di guerra e scoppierebbe la terza guerra mondiale. È confuso, ragazzi. Ma non è che è confuso. questi sono delle volpi, delle vecchie volpi. Manco poco. Esatto, questi giorno, regalo, vogliono... due dichiarazioni, abbiamo letto due dichiarazioni nello stesso giorno. Questi vogliono tutto, capito? Questi vogliono capre e cavoli, salvare tutto, cioè certo, bisogna continuare a finanziare la resistenza ucraina, certo, però non bisogna far arrabbiare troppo il mostro cattivo di Putin, perché se si arrabbia Putin, aia. Quindi ecco, la situazione del governo italiano, come al solito, noi il propone governo italiano propone anche un tavolo di pace. Sì, propone certo, un tavolo di pace. Certo. Gli invii, capito? Dice io. Vabbè, d'altronde diciamo 700 che sbagli di mesi che ci troviamo davanti ma a sta roba, ragazzi, qua. Ragazzi, noi non abbiamo però, niente. Come dicevamo prima, però insomma, diciamo che la situazione poi con l'andare avanti del tempo e delle provocazioni e dell'arrivo anche di armamenti sempre più atti all'attacco. Sì, anche perché esatto, scusami, ti interrompo perché oggi la notizia di oggi è che Zelensky ha chiesto anche gli F-16, che esatto, sono i caccia. Esatto, e questa cosa qua infatti è proprio quello che da prima lo stavo per dire, questo è uno dei problemi, perché poi vanno avanti le tecnologie che vengono utilizzate e di conseguenza anche la portata dei danni e quindi poi di conseguenza anche la portata della risposta che viene utilizzata contro determinate cose. Sì, vabbè, tre giorni fa gli carri armati, oggi dicevo, caccia, cosa, domani cosa chiederà? Dicevo quella cosa della Cina, perché per quanto è vero che se poi la Russia con quello che c'è in Russia non riesce a fare i soldi su di noi, in qualche modo poi tanto comunque la politica che stanno attuando questi stati è fallimentare, perché gli si apre un panorama verso destra sulla cartina geografica, verso la Cina, che è sotto il punto di vista delle richieste molto grande, molto vasto, è in crescita e poi mo la battuta degli stipendi che cominceranno a sfruttare in Puglia piuttosto che in Cina, veramente sì, è un paradosso che andrebbe approfondito, che però per il momento diciamo che la buttiamo là come una battuta. Però insomma il fatto che l'economia cinese sia molto in crescita e che la Russia comunque ci faccia ci vada a braccetto, insomma non è una novità. Questo sposato col fatto che finalmente poi Putin sbraga le carte e dice non va bene che l'Europa abbia tutto quanto sto controllo da parte dell'America, insomma fa un po' preparare il piano per una partitina di poker. Vabbè, niente male, no? Dicevamo, perché non si provvede a fare determinate cose, perché non si va, non si è sciolta la NATO, uno perché l'America non c'ha minimamente voglia di interrompere il suo sfruttamento dell'Europa, perché qua noi siamo, per quanto stiamo male e fa scalpore che conviene sfruttare in Cina piuttosto che in Puglia, comunque qua siamo i ricchi, siamo noi quelli che detengono la ricchezza, siamo esatto, quelli che sfruttano da sempre, insomma, in siamo, questo caso... siamo gli esportatori da sempre del colonialismo e del capitalismo, ce lo siamo inventato noi. Poi che il punto ci abbiano bisogno, non lo so, vabbè, no, questo non lo faccio, sto salto di palo in frasca, dai, non lo faccio. No, ma mi fai venire in mente una battuta famosissima, insomma, di Al Pacino. Perché io stavo bravo, perché io stavo a parlare, nel senso, vedi che comunque alla fine ci devi portare, vai, una battuta di Al Pacino. No, una battuta di Al Pacino in Hunters, che diceva appunto non esiste il presente non esiste, esiste solo il passato che si ripete. Ed è questa cosa, effettivamente, quello che sta succedendo adesso. Se bravo, infatti, cioè, nel senso, sembra quasi, vedi, che sia già successo. Io stavo vedendo, invece mi ci hai portato, nel senso, il fatto che ci abbiano bisogno di continuare a tenere vivo il 41 bis, se giocano la carta Matteo Messina Denaro 30 anni dopo il giorno Derina, o dopo il giorno Derina, durante la fiction televisiva con Dalla Chiesa in prima serata, in prima visione, sei il solito complottista, sì, mo te lo dico, sono proprio un complottista. Sei proprio il complottista, sì, cioè, ma come, mo tu vuoi mettere insieme tutti i puntini, sì, allora sì, vale tutto. Famo proprio il complottismo, quello bello. Allora vale pure detto sicuramente. Le strisce chimiche. Le strisce chimiche, certo, ci stanno gli alieni da Venusia. Che ne so, i venusiani. No, però nel senso, poi i giochi, appunto, no, esiste. Sto giocando, però hai ragione. Cioè, presente, com'è? Presente. Non futuro. Esiste il presente, esiste solo il passato che si ripete. La storia che si ripete. E calla. 30 anni dopo, insomma, Berlusconi lì era appena sceso in campo, insomma, quando si parlava della Rastoderina, Sì, sì. Beh, sì, all'inizio, metà degli anni 90, diciamo che Berlusconi è stato proprio lì, diciamo che lui ha sfruttato il momento, diciamo, giusto. Che adesso comunque Giorgia c'ha questa cosa qua, che lei vuole riunire molto il... Stai prendendo in giro il nostro Presidente del Consiglio? Assolutamente. Ah. Lei vuole assolutamente unificare sotto tutti quanti i punti di vista questa grande coalizione di destra, no? E batti becca pure con Berlusconi, infatti, che lui, diciamo, è uno dei precursori del centrodestra unito. Ma soprattutto è uno, il Forza Italia, quindi Berlusconi, sono tra i più fervidi oppositori della questione delle intercettazioni. Ah, beh, certo, è vero, perché sono dei libertari impuniti. Beh, però le intercettazioni ne parliamo dopo la canzone. No, basta. Parlare, basta, chiudiamo, dai. No, dai, andiamo via. Facciamo Master of Scratch tra DJ Vadim e DJ Prankats. Poi ricordiamo che alle 18 c'è il presidio, che magari diventa anche, come dicevamo prima, un corteo a Trilussamo. Vediamo quello che succede. Noi siamo qua in radio e dai. Break. Remember it. And if you've patience, you can learn to do all things. Keep practicing. Have you had enough? 16:43, questo è sempre te l'avevo detto. Questo era un. Abbiamo un quesito un master per off scratch. Sì, cioè abbiamo il quesito delle 5 meno un quarto. Chi entra un quarto d'ora ci chiama e ci dice qual è il la risposta corretta, vince una scaccia da 12 euro. Che è tanto che non la diamo, dai. Ok. Qual è il contrario di appendere? Disappeso, io dico. Disappeso, dici. Disappeso. Appeso, allora quindi attaccato, staccato. Appendere. È il contrario di appeso? Disappeso. Disappeso. Sarà no. Disappeso? No. Non appeso. non più appeso. Che devo fare? Lo diciamo o. No, si muore alle 5, allora, lo diciamo. Alle 5, ce lo siamo scordati per le 5. Cinque, certo, ce lo siamo scordati. comunque, dice. No, aspetta, dai, aspetta. No. Mo, a parte no, questo no. Qua, che diciamo De Crosetto, che è stato insultato pubblicamente. Ah, che bella figura. Sì, chiudiamo lo scambio, insomma, che ci siamo fatti prima sì. Di notizie, no? Le due contrastanti. Cioè, lui che dice dei missili, fa l'accordo con la Francia per l'acquisto congiunto di 700 missili, dopodiché lui lo stesso giorno che dichiara sì però no ai carri armati perché potrebbero produrre la terza causare la terza guerra mondiale, e alla fine c'è la risposta di Medvedev della difesa russa, esatto, che non insomma queste sembrano le parole, che dice non ci sono molti sciocchi nelle strutture di potere europee, ma il ministro della difesa italiana ha definito la fornitura di carri armati all'Ucraina un modo per evitare la terza guerra mondiale, un raro eccentrico. Cioè persino Medvedev, sciocco e non studiato, che è un proprio sì. un yes man di Putin, sì. È riuscito a fare questa caduta di a ripulire Crosetto, cioè vabbè. Ok. È sceso dal mamma mia dal cioè, Cremlino mamma è sceso mia. Dal Cremlino per insultare il Crosettino. Va bene e poi altro che sembrava un po', diciamo, prima ci stavamo a scherzare con Jack, sembra un po' lo sbuffetto prima che ti arriva nei botte, esatto, capito, sembra quella pizza dietro al collo, che è quella che dice ragazzi, ma ti rendi conto che stai esagerando, effettivamente falla vincere dietro al collo a prima. Ci mancherebbe, se io, però, come dire, definire cioè veramente Crosetto è ai limiti del surreale, cioè perché parlare dei carri armati cioè in questi termini, dire che servono ad evitare la sì, terza no, guerra mondiale nel momento in cui si firmano accordi con altri paesi per inviare armi, cioè si sta discutendo, non viene battuto solo l'utilizzo, cioè carri armati e altre armi. Ma come si può tu come intendi evitare una terza guerra mondiale che stai inviando, e ti viene battuto questo, cioè come pensi di poter chiedere la fine di quello che stai causando? Ma questa è la stessa logica, diciamo, occidentale degli Stati Uniti, cioè come si combatte l'eccesso di armi con più armi? Sì, che è capito? Pure come se le contraddizioni, esatto, della guerra, la guerra con la pace con la guerra, cioè, con i mitra. Dice, come evitiamo la terza guerra mondiale con i carri armati più grandi, perché noi così sconfiggeremo la Russia e eviteremo la terza guerra mondiale. Cioè questo, davvero, noi siamo arrivati a questo. Questo dovrebbe essere un ministro, cioè è un ministro. Ecco, io dopo c'è un bellissimo adesivo qui in radio che dice: se voti poi non te lamentà. esatto, questa cosa io dopo poi soprattutto se voti a Meloni non te proprio lamentare. No, ma proprio se voti in generale, cioè se avalli questo giochino di queste. Ah, poi c'è pure la flat tax, pure una no, basta. Dai, pure la flat tax al 15% per tutti quanti. Ma sui ricavi in più rispetto a quelli dell'anno scorso, diciamo le cose come stanno, dobbiamo dare delle non notizie. Non ci scordiamo vere. Pure che questo era comunque un omino che non è un giorno che sta dietro le ombre, eh. Cioè okay. Questo omino qui era da mo che stava a cercare cioè comunque dici Crosetto? Si preparava da anni anche perché nell'ombra il fatto che lui comunque aveva già interazioni con la difesa per via di essere un mercante d'armi, no, sostanzialmente ma esatto, ma in questo scenario la notizia è che sta per rientrare, quindi stava proprio nell'ombra aspettando, appoggiando comunque la Meloni anche, cioè, no, so anni che lo vediamo ma dietro in comunque, tutto ciò sta per rientrare Fini, cioè in tutto ciò Fini si è ripresentato. No, davvero, perché lui c'ha già dei suoi uomini dentro il governo. Vabbè, quello però dopo la scissione sta succedendo che Fini in questo momento è un po' visto come il guru, il deus ex machina un po' della questione, viene visto un po' come un guru della destra repubblicana, e quindi in questa fase si sta pensando anche lui, diciamo, oggi stavo ascoltando in radio una sua dichiarazione che non sarebbe affatto dispiaciuto di riproporsi, perché insomma è una stagione diversa e lui, come sappiamo, è un uomo per tutte le stagioni, no? Insomma, conosciamo è un po' questi. Come le ruote della macchina, certo, quattro stagioni fatto bene, ha avuto diciamo un piccolo momento di magese, lui si è bello riposato, preciso come un bel campo che tu lasci a riposare senza coltivarlo, perfetto, e adesso lui è pronto per ritornare e ci ritroveremo probabilmente quel criminale fascista di Gianfranco Fini che insomma molti di voi probabilmente all'ascolto non lo sì, so è uno di quelli che c'eravamo se lo ricordano tolto da e invece no ce lo ritroveremo probabilmente, non esatto. È detto ancora, però insomma c'è una buona sì, perché lui diciamo i suoi ce l'ha dentro, quindi pare si stia preparando il terreno insomma per un grande ritorno, sì, perché pare che la Meloni abbia bisogno di un supporto, di uno sponsor anche sì. Diciamo di una spada tratta possibilmente con il braccio destro, e se è Fini ad alzare questa spada a brandire questa spada il peso insomma, perché nella politica italiana lo sappiamo che i grandi vecchi hanno un certo fascino, no? Beh sì, diciamo che siamo proprio ammaliati da questa cosa qua del leader. Proprio come in America, come d'altronde questi qua vanno a andare verso il presidenzialismo, no? Cioè nel senso il partito repubblicano unificato, cioè nel senso poi è questo quello che ci serve, è questo quello che votiamo. No. Votano o meglio appunto, sì. Per carità, però insomma però quando poi per quanto ci sta quasi il 50% di astensione, quindi invece di essere uno su tre o uno su sei a conti fatti a Meloni ha votata. Esatto, allora ci hanno dato la soluzione nel frattempo del contrario di appeso. Sì. Era facilissimo. Devo mettere uno dei tamburi? Il contrario di appeso è Osep. Mi sembra abbastanza grande dal nostro gruppo grandi. Ti sei meritato un traccione, questa è Acufene. Aspetta, grazie. OBF, grazie. Dal nostro gruppo Tele. Ci hai dato un senso a questo sabato in radio. Meno male. 77.9 Onda Rossa, e 16.54. Questo è sempre Io te l'avevo detto. E niente, quindi abbiamo visto insomma una miriade di figuracce una appresso all'altra di questo governo. Sì, effettivamente non sta andando granché bene, quantomeno nell'immagine che nella fiducia, anche se devo dire che effettivamente i sondaggi... C'è avuto un bel po' a che fa con i benzinai sta settimana che dicevano questo sì, sciopero. Nel senso c'è un bel po' di come si dice, de mar de panza pure da parte dell'elettorato, dai, si comincia a sentire un po'. Eh sì, appunto, c'è questa un po' di delusione per quanto riguarda le aspettative che c'erano sulla novità che rappresentava, insomma, che avrebbe dovuto rappresentare questo governo. Invece è evidente che la destra c'ha un volto solo, è sempre quello, possono cambiare le facce, ma destra e sinistra di Parlamento istituzionali hanno molti aspetti in comune. Certo è che questa destra, certo, uno dice tu la becera, tu me stai a becera, fa il discorso ignorante, non me lo sarei mai creso. Il discorso non è destra e sinistra tutti uguali, no, non me lo sarei mai creso, che no, io sono di sinistra, no, non sto sono... a te che stai a fare quel discorso di destra, di non sono uguale a nessuno. No, certo, ti sto a dire un'altra cosa, però niente, vabbè. Qual è il discorso che io No, non hai deviato, anzi al contrario, no, avrei messo dentro. Non ci saremmo mai aspettati, insomma, che il PD insomma diventasse un problema tanto quanto quell'altra fazione. E invece sono proprio speculari, cioè sembra quasi che, anche perché, come dicevamo, se da un lato, non me lo sarei mai creso. Se da un lato c'è il grande vecchio della destra Fini che si riaffaccia di là, le operazioni per quanto riguarda il PD sembrerebbe che siano manovrate tutte dai grandi vecchi, D'Alema e Bersani, insomma, perché no, D'Alema ha dichiarato sì, certo, sto in pensione, certo, non voglio sapere niente, fate voi. No, appunto, io c'ho la barchetta mia, me sì, sì, sì. La barchetta mia è dove ricevo tutti quanti i giorni i rapporti dei servizi segreti, quindi non giochiamo. Non lo so, la cosa divertente, sì, ma quello non vuole rotture di bip con questioni interne del PD, come esatto, dire. Dato che questo PD evidentemente vabbè, ma dicono che comunque adesso devono cambiare nome, cioè lo devono chiamare, cambieranno nome PD, cioè PD, Partito Democratico per davvero, già l'abbiamo detto, sì. PD, doppio, cioè oppure PD al cubo, PD, doppia, PD, sì, PD al quadrato, PD, PD. Bello. Il nuovo PD risolverà, riuscirà a risolvere, anzi, ve lo chiediamo a voi. Sì, no. No, non riuscirà. Lo diamo noi subito. Facciamo anche un pronostico, insomma, sicuramente. No, perché poi ci saranno le primarie. C'è il congresso. Ci saranno le primarie. Sicuramente, siccome il PD non è secondo, no, perché la destra ci ha avuto il primo presidente donna, quindi il PD non è che è secondo. Vedrai che qui eleggerà il primo presidente. Lash line pronta per diventare il secondo presidente subito dopo. Ma lei si farà chiamare seconda o secondo pure lei? Qua c'è da vedere, però questo. Lei forse no. Però non lo so, Alice Line è una delle candidate alle primarie del PD e quindi anche al congresso, chiaramente, insomma, che diciamo che il PD, essendo il partito di centrosinistra più grande d'Europa, sta facendo il congresso più grande del mondo, cioè ormai che è diventato anche il Partito Democristiano nel frattempo, sì, che si è anche modellato verso il essere definitivamente DC un attimo. PD, questi stanno a fare Partito Democristiano, i congressi, capito, dentro le sezioni. Mo vediamo che cosa succederà, no? Vota quello, vota quell'altro, no, io dentro allo stesso partito, poi vanno da Vespa e si scannano tra di loro in quattro. Spettacolo, infatti, c'è, nel senso, c'è gente che pagherebbe per vedere sta roba, invece poi da gratis al servizio pubblico. Esatto. Infatti ringraziamo anche la Rai veramente per questo servizio. No, però sì, di qualità, sì, cioè veramente. Sì. La democrazia di questa nazione è veramente uno show. Diciamo che poi costante. Ecco, con questo governo sta anche peggiorando la condizione, direi, culturale proprio dei membri stessi del governo. Se era possibile. Qualora fosse possibile, sta peggiorando. No, come qualora fosse, è proprio peggiorata. Con queste figure la condizione culturale media è peggiorata proprio in maniera drastica. e quindi insomma non si prevede proprio come dire un buon periodo, soprattutto perché, come dicevamo poco fa, nella coalizione di destra, le destre bene o male i loro accordi, i loro ma modelli sì, di fanno di finta di scannarsi, esatto, però ce l'hanno sempre, cosa che sì, sì, tanto è infatti che si parla parte, diciamo dei repubblicani e democratici, proprio stiamo su quella sì, roba sì, là sì, sì, sì. E vabbè, diciamo che per questo sabato, io te l'avevo detto, finisce qua e vi ricordiamo l'appuntamento a sabato prossimo, più tardi sicuramente noi stiamo qui a seguire il presidio, esatto. Piazza delle Lussa dalle 18, sentiremo sicuramente diverse voci dal presidio, l'invito è quello a esserci e a provare ad esserci, cominciare a dirigersi a Trilussa come abbiamo fatto nel corso della settimana e magari comunque ecco restiamo qua, ci sentiamo un po' di musica, ci continuiamo a fare anche due chiacchiere un po' sulla questione 41 bis sostatività Alfredo, pure se beva pure a voi che restate qua e il palinsesto fino a prova contraria va avanti con Salpina, alza disaccordo, musica macchina e poi rotation, ci sentiamo un po' di musica, noi stiamo qua almeno per un'altra oretta, oretta e mezza, dai, forte. Dai. Ciao ciao. Questa è Panda Dub, Smile is the Key. Una serata, una risata, così finirà. Se vi state a sentire la Onda Rossa e se vi state a sentire soprattutto l'FM sugli 87.9, fate centrillino così capiamo che si sente bene in tutta quanta Roma. Se ci siamo, se è tutto a posto, dai forte, dai forte. Allora c'è Trilleno e ci dicono che dall'Alessandrino Radio Onda Rossa si sente forte e chiaro, quindi dai è forte, ci siamo. E arriva forte e chiaro e noi stiamo ancora qua. Il segnale c'è e continuerà a starci. E ci arrivano conferme, quindi niente, stiamo ancora qua e ci sentiamo un altro po' di musica, sempre fino a oltranza. Vi ricordiamo che di nuovo alle 18 c'è l'appuntamento a Trilussa, quindi l'invito a tutti e a tutte quelli, a quelli all'ascolto che semplicemente sono contro il regime di tortura che questo Stato si ostina a perpetrare, insomma ad avvicinarsi, a raggiungere compagni e compagne, perché insomma è quello di cui si parla in questo caso e non ci stancheremo mai di dirlo, dai. Gypsy Dub.